известные проблемы в мировых финансах. I'm beginning a conversation with you, with America. Jefferson 2, l'arte della svolta. Di Stefano Pistolini. Good morning, Maurice. Well, his investors are anxious for Madoff to leave his luxury apartment behind me here and head to prison, but they're even more anxious to get their money. Questa è la cronista piazzata fuori dal Palazzo di Giustizia di Pearl Street a Manhattan. E poi c'era la voce di una testimone del crack Madoff, una delle vittime del crack Madoff. 25 di queste vittime dovrebbero sfilare nel corso della giornata di testimonianza, ma già ci sono delle ultimissime al riguardo. La prima ultimissima è che Bernard Madoff si è dichiarato colpevole in tutte le 11 accuse emerse dallo scandalo forse più grosso che abbia spazzato Wall Street. Il rischio parla di 150 anni di carcere, ma Madoff è un uomo anziano, ne ha 70 e si sta battendo per avere gli arresti domiciliari fino al giorno 16 giugno, data dell'udienza in cui Madoff verrà informato, verrà a conoscenza della condanna. Quindi ci sono ben tre strani mesi su cui naturalmente si stanno accanendo, no? Tutte le vittime o buona parte delle vittime di Madoff non vorrebbero che questi tre mesi Madoff tornasse a trascorrerli nello splendore del suo attico a Manhattan. Vorrebbero vederlo con la tradizionale, no, divisa a strisce dei detenuti. Beh, se New York è New York, se l'America, se Wall Street è Wall Street, non basterebbero, non so, Sinclair Lewis, Scott Fitzgerald e anche Tom Wolfe, per stare più vicino ai nostri tempi, per rappresentare quello che è andato in scena oggi, che sta andando in scena in queste ore a Manhattan, a cominciare dall'arrivo di Bernard Madoff al Palazzo di Giustizia tra due ali di reporter incredibili. Gli scatti degli otturatori delle macchine fotografiche sembravano vere e proprie mitragliatrici. È entrato con questo abito grigio di taglio elegantissimo, pare senza il giubbotto antiproiettile di cui si era dotato in tutte le sue ultime uscite pubbliche. Vi lascio immaginare perché portasse un giubbotto antiproiettile uno che ha rovinato di tutto, ha rovinato miliardari e piccoli risparmiatori, impiegati, famiglie, tanti pensionati, gente che gli aveva messo i soldi in mano e che si era imbattuto in questo schema Ponzi, no? Uno schema in pratica di una catena di Sant'Antonio dell'eterno debito credito, che naturalmente finisce poi per sgretolarsi e crollare alla fine, e se le autorità, come in questo caso e in altri casi, anche in quello del personaggio che ha dato il nome alla frode, lo stesso Ponzi, non intervengono prima, non si rendono conto che sta succedendo, sta andando in scena qualcosa di strano. Comunque la notizia, come vi dicevo, è che Madoff ha ammesso la propria colpevolezza, si è detto contrito, ha ammesso di aver operato uno schema Ponzi, di non poter adeguatamente esprimere a parole il proprio dispiacere per le migliaia di investitori i cui risparmi sono finiti in fumo. Pensate come avranno reagito le diverse decine di risparmiatori, investitori stessi, a sentirgli dire: non posso adeguatamente esprimere a parole il mio dispiacere. Ha detto di aver cominciato a costruire il castello di carte finanziario negli anni 90 come reazione alla recessione di quel periodo. Speravo di poterne uscire presto, ma purtroppo mi è stato impossibile. Vi ripeto, c'è chi paragona l'udienza di oggi sulla stampa americana a un vero e proprio circo. C'è chi dice, come Richard Friedman, che è un commercialista che ha perso oltre 3 milioni di dollari dandoli in mano a Madoff. Il crimine che ha commesso Madoff è inimmaginabile, dice, non è neanche un tipico schema Ponzi, è un vero e proprio proprio attacco all'ordine sociale americano, non una persona che non sia stata colpita da un attacco personale di questo genere non può non rendersi conto di quanto faccia male aver subito una truffa di questo genere e tante altre cose di questo tenore. Tenete presente che delle ultime ore la notizia che contravviene, per chi abbia seguito le cronache di questa storia piuttosto straordinaria, che contravviene le prime informazioni e riguarda la famiglia, la stessa stampa newyorkese che originariamente all'inizio dello scandalo aveva distinto con una certa attenzione tra Bernard Madoff e i suoi familiari, in un certo senso accettando, lasciando correre la teoria che metteva un netto distinguo, il genio del male, quello che pensate New York, il magazine, il settimanale che esce nella grande mela, chiama Bernard Madoff, virgola monster, cioè la categoria a cui lo associa è quello dei mostri. Ebbene, si distingueva tra il mostro e i familiari del mostro, la moglie Ruth e i figli Mark e Andrew e poi il fratello Peter e la nipote Shana, dicevano, ma probabilmente non sapevano niente. Adesso si sta sgretolando anche questa teoria, è saltato fuori che Ruth, la moglie di Madoff, avrebbe ricevuto almeno 70 milioni di dollari dal marito, che qualche giorno fa a sua volta ha assunto un avvocato, che la sua innocenza ora è fortemente in discussione. Il sito Daily Beast, quello gestito da Tina Brown, dice che se gli agenti federali faranno bene il loro lavoro ci saranno a breve almeno altre 20 incriminazioni, alcune per complicità penale con Madoff, altre in cause civili di competenza della SEC. Pensate un po' che questo, insomma, era l'uomo che guidava il Nasdaq. Intanto la Procura di New York ha indicato in quasi 65 miliardi di dollari, più dei 50 indicati inizialmente, poi 65, ma è una cifra indicativa, ma l'ammontare totale della supertruffa è tutt'altro che chiaro. Questo nuovo totale riguarda comunque i profitti fasulli che Madoff sosteneva di aver generato a partire dagli anni 80, primi 90, con quel tocco della finanza che garantiva interessi all'incirca del 10%, ma che in certi casi è arrivati anche al 40%, no? Si davano i soldi a Madoff e i soldi si moltiplicavano come i pani e i pesci. A ogni buon conto, nell'atto di incriminazioni i procuratori hanno indicato in 170 miliardi di dollari il valore di beni di Madoff e dintorni di cui viene chiesta la confisca, una cifra da capogiro che tiene conto di tutti i soldi che sono passati sui suoi conti, ma da qua poi a vedere come questa storia finirà, c'è naturalmente di mezzo molta verità. Quello che è certo, andando a fare una passeggiata non troppo lontano poi dalla Corte di Giustizia, arrivando fino a Central Park, che a Central Park ci sono quattro panchine che erano state acquistate, sponsorizzate, come si fa nel grande parco di Manhattan, dalla famiglia Madoff e dedicate alla memoria dei genitori. Al Central Park si può fare, se vuoi rendere omaggio a qualcuno che ti è caro, puoi comprare, diciamo così, una panchina, metterci una piccola targa e quella panchina per sempre è dedicata alla memoria dei tuoi cari. Ebbene, le panchine dedicate ai cari di Madoff sono a forte rischio, si trovano all'ingresso del parco tra Fifth Avenue e la 67esima strada, furono donate da Madoff e famiglia in memoria dei genitori e dei genitori della moglie Ruth, e c'è un insegnante che ci passa vicino tutti i giorni, si chiama Julie Rotondi, è stata intervistata dalla televisione, ha detto: ma guarda, ancora non le hanno spaccate, ma secondo me ci manca poco. E anche un poliziotto di zona dice che converrebbe al più presto togliere la targa con quello che ha definito il vergognoso nome di Madoff attaccato sopra. Questa è l'aria che tira a New York, no? Nella finanza newyorkese oggi è diventata un melodramma, è diventata una sceneggiata, chiamatelo quello che volete. Il cattivo ha sfilato con la sua maschera da cattivo, che poi viene ridicolizzata in mille caricature, non riesce più a togliersi di dosso ormai questa etichetta di malvagità. Si va al 16 giugno, ci sono di mezzo tre mesi in cui potrebbero succedere un sacco di cose in un'America sotto il cui cielo il disordine è sempre più grande. Arriva in diretta un primo segnale del fatto che il giudice Danny Chin, quello che guida la corte, che prenderà le decisioni sul caso Madoff, abbia tutte le intenzioni di agire, come dire, incisivamente. Insomma, è stata negata, questa è la notizia dell'ultimissima ora, è stata negata la possibilità di restare agli arresti domiciliari nel suo appartamento a Bernard Madoff fino al 16 giugno, giorno della sentenza. Madoff andrà subito in carcere, è stata negata la proroga degli arresti domiciliari e si comincia a dare soddisfazione, ma quando mai basterà, no, questa soddisfazione alle tante persone rovinate da Madoff che in queste ore gravitano, no, in quella zona di New York, in quel quadratino di New York dove credo l'ansia e la rabbia raggiungano livelli stellari. Abbiamo parlato di Madoff anche nel nostro Express Yourself, vi abbiamo interrogato al riguardo, vi abbiamo raccontato di Robert Chu, questo investitore travolto dallo schema di Madoff che gli ha scritto una lettera aperta su Time, ve la riassumo. Lei piange, dice Chu a Madoff, lei sapeva che stava scambiando 40 anni di splendore con una quindicina di anni dietro le sbarre fino alla sua morte, non le sembra un brutto affare? O forse sì, lei se ne sbatte, si sente intoccabile, lei ha tradito le regole, ha preso in giro la sua famiglia, amici, clienti, forse si è preso in giro da solo. Lei è il simbolo finale dei nostri tempi, avidità a ogni costo, anche a costo della tua stessa vita, a costo dell'intero sistema. Ma in qualche modo noi rinasceremo, scrive Robert Chu su Time a Mr. Madoff. Lei, Mr. Madoff, è morto. Valeva la pena, Mr. Madoff, e abbiamo chiesto a voi tutti, cari ascoltatori, di mandare a Jefferson, a Express Yourself, un commento, no? Un sentimento riguardo a questa storia molto molto molto pesante. Allora, quando arrivano post, quando arrivano mail come quelle di Cristiano, sono molto allegro perché fa una citazione dottissima che ci riporta Orson Welles e poi un altro bellissimo film che era La moglie del soldato, perché dice: ricordo una favola che comincia con uno scorpione che deve attraversare un ruscello in groppa a una rana che si fida della sua parola, però tutto poi sappiamo come finisce, con lo scorpione che dice: so che morirò anch'io ma non ho potuto farci niente, è nella mia natura. Infatti lo scorpione infilza la rana e quindi entrambi annegano nel fiume. E dice: vi ricorda qualcosa la favoletta di Madoff, pardon, dello scorpione? quindi lo scorpione di turno, cioè era cattivo dentro, non poteva farci niente, insomma. Ma. Poi molti, devo dire, hanno fatto il ping pong, il parallelismo tra Stati Uniti e Italia, quindi da Madoff la memoria, la mente, quindi anche la penna telematica è corsa verso Tanzi, soprattutto Callisto Tanzi in particolare, la vicenda che è rimasta forse più impressa nei cuori e nei portafogli di noi italiani. Infatti dice: da noi a Parma Callisto Tanzi si becca 10 anni per 14 miliardi di euro, dice Daniele, e riprende tranquillo il suo lavoro in una fabbrichetta di merendine, libero, tranquillo, ricco, niente lacrime. Fabiana, l'avidità e il potere rendono alcuni uomini più bestie di qualunque razza di animale vivente sul pianeta. Ulala. Federico, anche nei paesi anglosassoni alcuni Bernie Madoff la fanno franca, ma a volte no, come in questo caso. Invece negli altri paesi, come il nostro, la fanno sempre franca. Ottimista, Federico. Sandro, Mr. Chu nella lettera propone lo spirito puritano, morale da padri fondatori, in sintesi da nuova frontiera kennediana, contrapposto al modello di capitalismo 1860 in poi, quello pistole, vigilantes, sopraffazione, e sostiene, posso definirlo putiniano? Giulio, è rimprovero definitivo a chi ha tradito gli americani e ha messo in pericolo la stabilità dell'intero paese. Insomma, anche Giulio pensa che l'America sia in un procedimento, in una elaborazione, no, di purificazione. Ma... Allora, qui c'è Giovanni che scrive, se vogliamo a suo modo, una lettera aperta a Robert Chow, perché dice: il sottoscritto, cioè Giovanni, da anni riesce a investire solo cacchette di cani, scrive, sui marciapiedi del villaggio. I risparmi, quando ci sono, li spendo puntualmente tutti per non farmi mancare nulla, e soprattutto così i Bernie Madoff possibili che potrei incrociare lungo il percorso con me fanno la fame. Fatalismo. Poi c'è invece Simone, più interrogativo, che dice: quanti squali sono rimasti intrappolati nella rete del furbone? Ma a voi non pare assurdo che i figli dicano di non essersi mai accorti di nulla? Bella domanda. Però abbiamo appena risposto, i figli li stanno progressivamente tirando dentro la storia. Beh, per forza, direi. Luca, quelli come Mr. Madoff ce ne sono tanti, andrebbero appesi a testa in giù. Accidenti. Annini, mi limito a una battuta romanesca, comunque so sempre gli stracci che vanno per aria. Mukeba, Madoff non ha fatto tutto da solo, dov'era chi doveva vigilare? Lucina, sono fiducioso nella giustizia americana, spero che Madoff stia in carcere e non agli arresti domiciliari. Sei stata accontentata, Lucina. Stefano, la lettera dice già tutto, mentre da noi il caro buon vecchio Tanzi, ecco che rispunta, ha fatto l'affare sul serio. Madoff è morto, Tanzi è più vivo che mai. Allora, qui c'è Franco che dice: ottima e precisa la lettera J'accuse verso Madoff. Gli States, nel bene e nel male, rimangono sempre una grande democrazia. Negli Stati Uniti i Madoff vanno in galera, anche qui rimane il paragone costante e frequente con l'Italia. Dalle nostre parti sappiamo tutti dove vanno, o forse dove non vanno. E diciamo, è lunga la lista dei messaggi di rimprovero, ma anche, come dicevamo, di fatalismo, no? C'è la sensazione che cose di questo genere accadano sicuramente per una malvagità e un'avidità in circolo, ma accadano anche perché succede che accadano, che si facciano accadere. Luigi, ed è l'ultimo che leggo, il sistema che ha permesso a Madoff di mettere in pratica la truffa più vecchia del mondo finanziario è, secondo me, secondo Luigi, il vero mostro. I'm too young to know how it- Presidente 44. Obama alla Casa Bianca. Dunque, un'altra giornata, diciamo, piuttosto vivace per l'America, quella di oggi. Vi confermo la notizia che vi abbiamo dato poco fa, che soprattutto per l'aspetto che ci interessa di più come punto di vista del programma, ovvero come la società americana sta cambiando, sta vivendo questo periodo di particolare difficoltà e si dice anche di cambiamento, no? La parola simbolo del 2009. Dunque, il giudice ha accettato la dichiarazione di colpevolezza pronunciata da Bernard Madoff in relazione agli 11 capi d'accusa che gli erano rivolti, ha deciso anche di non concedere gli arresti domiciliari. Bernard Madoff, tra le scuse in cui si è profuso e la confusione nella quale probabilmente sta lentamente scendendo, ha detto la frase: sapevo che questo giorno sarebbe arrivato. Mario Platero è in collegamento da New York. Tra poco affronteremo discorsi washingtoniani relativi a un'altra mezza brutta figura o qualcosa del genere che è andata in scena ieri alla Casa Bianca. Ma prima, Mario, salutandoti, ti vorrei chiedere così una sensazione su questo melodramma in atto nella città dove vivi, che, come dicevo in apertura, ricorda un po' Scott Fitzgerald, un po' Tom Wolfe. In ogni caso, siamo alla resa dei conti. Che cosa dici? Direi totalmente alla resa dei conti, e non soltanto per così uno degli ultimi atti sul piano umano, quantomeno, della vicenda Madoff, ma perché qui la macchina della giustizia sta cominciando a muoversi. Il procuratore generale Cuomo questa mattina ha fatto capire che Merrill Lynch forse ha mentito al Congresso quando spiegava come avrebbe pagato i propri bonus, e quindi ecco che comincia a profilarsi qualche violazione anche di tipo criminale da parte di qualche banchiere che sembrava insospettabile, come John Dine, e banchieri che così credevano di essere davvero al di sopra di qualunque cosa e quindi si comportavano come se la loro posizione, il loro prestigio e la loro ricchezza in qualche modo gli consentisse qualunque cosa. Aiutaci a capire quali possono essere le estreme conseguenze di un filone di inchiesta di questo genere. Le estreme conseguenze possono essere, aggiungo, una serie di altri procuratori statali stanno cominciando ad aprire loro stessi delle inchieste un po' sulla scia di quelle di Cuomo, che comunque ha una posizione molto particolare perché essendo responsabile di New York ha anche una supervisione particolare, poteri particolari per il settore finanziario. Certo. Ma il capitolo successivo potrebbe essere quello del Dipartimento della Giustizia, che apre un'inchiesta a tutto campo su quello che è successo, cercare di rimettere insieme i pezzi per capire fino a che punto prima della crisi, durante la crisi e dopo la crisi ci sono state poi così delle violazioni, qualcuno ne ha approfittato, si sono ottenuti dei fondi pubblici che dovevano essere utilizzati per così ristrutturare alcune posizioni debitorie deboli e invece magari sono stati usati per pagare dei bonus, quindi c'è questo contesto di insieme che sta cominciando a prendere corpo, ne abbiamo parlato forse anche noi in passato, sicuramente certo, ne abbiamo scritto sul giornale, e poi c'è la notizia oggi, direi che in qualche modo fa da trampolino di lancio per tutto quello che poi seguirà, e cioè di Madoff che si è dichiarato colpevole, come certo hai detto te, questo suo arrivo in tribunale questa mattina, si è presentato impeccabile, camicia certo bianca, cravatta scura, vestito scuro, e poi il giudice ha ordinato che andasse in prigione. Solo il 16 giugno avremo la sentenza, una sentenza che non si sa se sarà una sentenza a vita, cioè i famosi 120, 130 anni, addirittura qualcuno ha detto 150 anni di prigione in base agli 11 capi d'accusa, oppure se sarà una sentenza più mite, ma sicuramente parliamo non meno di 20 o 30 anni. E lì finirà i suoi così, giorni, certo. Quest'uomo che resta un personaggio enigmatico, perché questa sua dichiarazione in cui dice, parlando appunto in tribunale, che nel momento in cui gli anni passavano io mi rendevo conto del mio rischio e sapevo che questo giorno sarebbe inevitabilmente certo. arrivato. Quindi è un uomo questo che darà da discutere, direi, agli psichiatri più che agli psicoanalisti, perché rivela chiaramente una sua totale incoscienza. Perché il piano non era perfetto, no? Era destinato comunque prima o poi a mostrare il meccanismo. Esattamente, e lui così ogni giorno che passava guadagnava certo. un giorno in più, ma si rendeva conto che insomma il meccanismo era esplosivo, era di nuovo una bolla, come sono tutti questi Ponzi schemes, e quindi oggi è un po' il day of the reckoning, il giorno certo. del giudizio, il giorno in cui ci si confronta dal caso più eclatante di questo signor Madoff, che così ha turlupinato 50, qualcuno ormai dice forse addirittura 65 miliardi di dollari a pensionati, vecchiette, attori, certo. registi, premi Nobel per la pace come Elie Wiesel, fondazioni, università dove persino lui sedeva nel consiglio di amministrazione, ecco, in un meccanismo direi perverso che nessuno poteva immaginare che si potesse verificarsi, che ha messo a nudo naturalmente quello che poi sul piano più vasto ci siamo resi conto essere, cioè una mancanza di rigidi controlli da parte della Security Exchange Commission, della SEC, l'equivalente della nostro Consob, delle autorità di controllo, della Federal Reserve e così via, autorità che alla fine non controllavano nulla, come ha detto Makropoulos, che anzi Marco Polus, perché poi il nome si pronuncia in questo modo, certo. di origine greca ma chiaramente con un riferimento al nostro veneziano, certo. L'uomo cioè che varie volte denunciò Madoff alla SEC, varie volte inviò documenti dicendo qui c'è qualcosa che non va, andate a scavare, e la SEC non fece nulla e poi archiviò tutto. Ebbene, lui disse: qui il problema è che in queste istituzioni ci sono persone che non hanno la minima idea di quello che davvero succede sul mercato, si fidano delle carte che vengono portate, ma poi non sono in grado di scavare al di là perché gli elementi tecnici sono talmente complessi che impediscono a loro di capire, perché non sono attrezzati a farlo, insomma, non è il loro mestiere. Dunque c'è una situazione molto complessa, tutta la questione delle regole, della necessità di riscrivere quello che è un sistema intricato di traffici finanziari globali, dovrei usare forse movimenti perché traffici dà l'idea di qualcosa di losco, visto che comunque questi movimenti finanziari certo. globali, spesso elettronici, spesso rapidissimi, ecco, va riscritto tutto. Il sistema che avevamo prima era un sistema che poggiava ancora su un'epoca vecchia, non era un sistema che teneva conto delle sfide della globalizzazione, questo va rifatto in modo totale e completo, lo si comincerà a fare al G20, questo fine settimana i ministri finanziari si riuniscono per discutere appunto anche di questo, e poi il grande appuntamento del 2 aprile a Londra, quando Barack Obama farà il suo debutto in Europa, arriverà in Gran Bretagna e ci sarà l'incontro del G20, un gruppo che raccoglie le principali 20 economie mondiali, per discutere appunto del da farsi. Ecco Mario, vorrei una tua ultima parola su questo strano episodio, inatteso episodio di ieri, ovvero questa firma un po' clandestina. Per la prima volta Obama non è andato in televisione, non ha avuto le telecamere e i reporter, eppure quella che vidimava con la sua firma era una manovra da 410 miliardi di dollari che lui ha definito imperfetta ma necessaria, e in questa imperfezione c'è chi sospetta, tanti sospettano fra gli editorialisti oggi, che risieda il suo desiderio, come dire, di farla scivolare un po' in silenzio, di avviarla intanto e poi magari di ripulirla lungo la strada. Ma io cito un articolo di Maureen Dowd uscito sul New York Times, in cui l'editorialista del quotidiano si diverte sadicamente a fare le pulci allo stanziamento Obama e tira fuori che 7,7 miliardi di dollari dei 410 sono andati in quelli che si chiamano earmarks, che noi definiremo un po' stanziamenti, non so come dire, soldi messi su cose come la ricerca sulla puzza dei porci nell'Iowa, 1.700.000 dollari, oppure il finanziamento di una fattoria di api a Weslaco nel Texas, Texas, oppure 951 mila dollari per una migliore Las Vegas, 2 milioni di dollari per la promozione dell'astronomia alle Hawaii. Pare che John McCain abbia avuto un mezzo infarto al Senato l'altro giorno cercando di mettere, no, il dito indice su questi stanziamenti. Ma com'è che Obama, dopo tutto quello che ha detto, ha fatto passare tutto questo pork, come dicono gli americani? Ma ce lo spieghi tu che cos'è il pork in una, sì, in uno, beh, il manovra. Pork barrel, cioè il grasso, ecco, di cui, così, con cui si ungono le ruote, se vuoi, cioè, e sono quelle spese che ciascun deputato, senatore cerca di portare al proprio stato per accontentare la propria base elettorale, per cui appunto tu hai dato un'idea di che tipo di spese sono, insomma, spese inutili, spese che certamente non servono l'interesse federale. Ma Obama non aveva detto che lui era contro. Era per un campo di golf, per migliorare un campo di golf. Ecco, dunque, ecco, allora qual è il problema? Il problema, forse lo abbiamo discusso in passato, Obama è straordinariamente popolare, non è riuscito a tradurre questa sua popolarità, questa sua presa popolare in leadership sul Congresso. Io direi è successo qualcosa di grave ieri, non a caso lo ha firmato di nascosto, fra virgolette. Certo. Questi 400 e passa miliardi di dollari sono un'appropriazione in denaro che serve a far funzionare il governo federale fino a settembre, e sono tutte le spese così di ordinaria amministrazione del governo. In mezzo questi 400 miliardi ce ne sono 7, quindi non è una cifra in termini percentuali strepitosa, però nel momento di crisi 7 miliardi farebbero più comodo forse in qualche cosa di più produttivo. Obama ha denunciato questi 7 miliardi, ha detto questo è l'ultimo bilancio che io firmo in questi termini, o meglio l'ultima appropriazione di spesa che io firmerò, ormai non possiamo far nulla, e così un po' la eredito e quindi la passo. Però sappiate che chiedo responsabilità, l'ho sempre detto, l'ho detto nel mio discorso inaugurale, e sappiate che dal mio punto di vista questo non si ripeterà più, quindi è l'ultima volta. Ecco, purtroppo la risposta che ha avuto Barack Obama, uso un termine volgare, ma è stato un po' un pernacchio da parte del Congresso. Non è così che va. Deputati, senatori, democratici, repubblicani, al di là delle differenze politiche, si sono coalizzati insieme, se vuoi, e insieme hanno parlato in vari gruppi, dicendo che la Casa Bianca forse non sapeva quello che stava dicendo e che queste spese c'erano, ci sono e ci saranno. Gli elettori vanno accontentati. Grazie a Mario Platero per queste approfondite cronache dagli Stati Uniti. 360 gradi, news dai punti sensibili del pianeta. Allora, avevamo una saporita portata per voi, ma come si dice, la mettiamo in frigorifero e la prepariamo per domani. C'è una riemersione di Paolo dalla Cina con molte notizie, ma abbiamo bisogno di più tempo di quanto ne disponiamo oggi, quindi è rinviato a domani, siete avvisati. Invece abbiamo parecchie notizie di cui ci interessa parlarvi. Aggiungo solo che Paolo merita l'attesa, perché ci sono delle primizie non indifferenti. Paolo. Allora, veniamo invece alle cose purtroppo più serie, perché torniamo a parlare di Sichuan, questa tristissima regione della Cina, salita purtroppo agli onori della cronaca ormai quasi un anno fa, era maggio dell'anno scorso, in pieno clima preolimpico ci fu questo terribile terremoto con 70.000 morti. La terra è tornata a tremare in Sichuan. L'Istituto Geologico Americano, io non so perché gli americani devono segnalare le cose che non funzionano nel Sichuan, comunque l'Istituto Geologico Americano ha registrato una scossa di magnitudo 5, quindi piuttosto intensa sulla scala Richter, però al momento non si segnalano danni né a persone né a cose. Poi ci sono un po' di vicende legate al Tibet, sono giorni naturalmente molto caldi, di anniversari significativi, anche traumatici in Tibet. Intanto c'è un'agenzia che da Strasburgo, dal Parlamento europeo, ci informa che la plenaria del Parlamento europeo appunto ha approvato con 338 voti a favore, 131 contrari e 14 astensioni una risoluzione in cui sollecita il governo cinese a considerare, leggo testualmente, il memorandum sulla effettiva autonomia per il popolo tibetano nel novembre 2008 quale base di partenza della discussione. Mi sembra un po' un comunicato piuttosto stantio questo che arriva da Strasburgo. Invece è più significativo l'atteggiamento del governatore cinese del Tibet, che mette addirittura in guardia i tibetani sul futuro successore del Dalai Lama. Il Dalai Lama ha già una certa età, ha superato i 70 anni, non sta benissimo, e comunque, volenti o nolenti, si comincia a parlare di successione, di reincarnazione del Dalai Lama. Il governatore del Tibet ha detto: colui che sarà riconosciuto come la sua reincarnazione dovrà avere l'approvazione del governo di Pechino. Quindi sono parole piuttosto pesanti. Se il Dalai Lama non rispetterà le norme per motivi politici e per altre ragioni, credo che la sua reincarnazione non sarà riconosciuta dal popolo tibetano e dal governo centrale. Quindi continua il braccio di ferro tra Pechino e Lhasa. Ricordo che per tradizione il successore del Dalai Lama è un bambino nato dopo la sua morte, scelto dai monaci buddisti, che ritengono che il ragazzino sia appunto la reincarnazione del capo spirituale. E torniamo negli Stati Uniti. Abbiamo cercato in questi ultimissimi istanti le notizie più fresche relative al caso Madoff, quelle che aggiornano definitivamente il quadro, soprattutto relative a ciò che Madoff ha detto nel corso dell'udienza, ciò che il giudice distrettuale Danny Chin gli ha consentito di dire. Ha raccontato, Madoff avrebbe raccontato di aver cominciato la frode in modo naturalmente intenzionale e conscio, ma di essere stato inizialmente convinto di poterla fare breve, di poterla chiudere rapidamente, di potersi districare, questa è la parola che ha usato, piuttosto in fretta, rientrando nei binari della legalità. Poi, questo è un virgolettato di Madoff: gli anni sono passati, io ho capito quanto stavo rischiando e ho compreso che questo giorno che sto vivendo oggi sarebbe inevitabilmente arrivato. Poi ha detto la frase che credo abbia fatto letteralmente gelare la pelle a tutti i presenti: non riesco a esprimere adeguatamente quanto mi dispiace. E dagli Stati Uniti altre notizie invece arrivano, relative alla strage in Alabama, che è andata in scena ieri, lasciando attonito, stordito e addolorato come mai. È la più grande strage avvenuta in questo Stato d'America, del quale raramente si parla nel sud degli Stati Uniti d'America. Tutti cercano le motivazioni, nessuno trova le motivazioni per le quali quest'uomo di 28 anni si sarebbe reso responsabile, Michael McClendon, di questa terribile strage che ha alla fine travolto una intera comunità. Tra l'altro, come sapete, è tra gli sceriffi che alla fine hanno stanato McClendon, costringendolo a suicidarsi. Uno di loro ha perduto, e non era neanche informato al momento della sparatoria, la moglie e la bambina di 3 mesi nel corso della folle corsa armata di McClendon. Stanno ricostruendo i pezzi della strage, le autorità locali fanno sapere che nelle prossime 24 ore cercheranno di descrivere anche il quadro psichico che ha generato questo terribile fatto di sangue. Allora, un'altra brevissima notizia, non so se sta cominciando tra poco, comunque è previsto in giornata un incontro tra Obama e il ministro degli esteri cinese Yang Jieqi, l'incontro a Washington. Il ministro cinese si trova ufficialmente a Washington per parlare del G20 ormai vicino ad aprile, ma si parlerà anche di un incidente diplomatico che c'è stato tra Washington e Pechino pochi giorni fa. C'è stato uno scontro quasi navale nel Pacifico, con 5 navi cinesi che hanno seguito da vicino una nave della marina statunitense. Sono arrivati a pochissimi metri. Ufficialmente, dicono gli americani, la nave era disarmata. I cinesi invece protestano, dicono insomma che Washington deve smetterla con attività navali illegali in acque vicine, molto vicine. Siamo quasi un clima da guerra fredda. Comunque le agenzie dicono che parleranno soprattutto di questo Obama e il ministro degli esteri cinese. Secondo me parlano d'altro. Forse di soldi. Secondo me parlano di soldi, delle navi. Cioè, stai attento con le navi. Meno male che ride anche Vivian Su, insomma, perché oggi la giornata è stata piuttosto carica di fatti, così, a diversi livelli di ansia. Speriamo di raccontarvene di più gioiosi a Jefferson fin da domani, seguendo comunque le gesta di questi Master of the Universe, no, padroni dell'universo, che però non devono più essere padroni dell'universo, però di fatto poi sono sempre padroni dell'universo, e quindi, come diceva anche Mario Platero prima, a scoperchiare poi man mano, no, il marcio, non si sa bene fin dove lo si trova radicato. Jefferson 2, da più di 2 anni vi racconta queste storie, adesso si chiama L'arte della svolta. Io sono Stefano Pistolini, in redazione c'è Emiliano Enrico, in regia a Roma Valerio Rocchetti, a Milano Filippo Aureggi. La mail è jefferson2@radio24.it. Abbiamo 2 pagine su Facebook, per comunicare con noi usate redazione Jefferson 2, per partecipare alle nostre discussioni, ai nostri forum usate Jefferson 2 Radio 24 Express Yourself. La puntata va in replica a mezzanotte, la trovate in podcast sul sito della RAI, e in diretta vi aspetta domani attorno alle 4 qui su Radio 24. Jefferson 2, l'arte della svolta.